Noia, a ragione che sta vita noia, da quando l'hai conosciuto sai, non era stata mai felice assai. Non esiste che tutte queste cose perdessero per te. Quando mi mancava, ma non lo sapevo, non la conoscevo, ma già mi sonnava, che tu mi correvo per se fa abbracciare. E proprio là mi scerrava, tu una bocca sola, che mi cerca ancora, ma con mezzo cuore non si fa l'amore, sono che ti è impenato, che non può rubare. Non è per sempre una sera noia, tu non sai che siamo tutte due, perché solesse mi fa vivere, basta un cuore solo a tutte e due, per colpa tua non la già perdere, non son cagure per loro due, te fai più male se non te ne vai. Noi, rinde promesse stiamo solo noi, ma che la sera non ci credere, è stato solo quel bicchiere in più, quando stai solo può succedere, fa conto che non ci hanno visto mai, scorda ma impressa mo che te ne vai. Non esiste che tutte queste cose perdesse per te. Con un vaso amare, t'ha fatto male, ha mi fatto amore, c'ha già miso cuore, non cercava amore, ma voleva a te. Se sombra cade pensiero, tu una bocca solo, che mi cerca ancora, ma con mezzo cuore, non si fa un amore, son che ti è impenato, che non può rubare. Non è per sempre una sera noia, tu non lo sai che siamo tutte e due, perché solesse mi fa vivere, basta un cuore solo a tutte e due, per colpa tua non la già perdere, non son cagone per loro due, te fai più male se non te ne vai. Noia, rinde promesse stiamo solo noi, a che la sera non ci è stato solo quel bicchiere in più, quando stai solo va a succedere, fa conto che non ci hanno visto mai, scorda ma impressa mo che te ne vai. Fa conto che non ci hanno visto mai, scorda ma impressa mo che te ne vai. Non esiste che tutte queste cose perdesse per te.